Focus Economia. Buonasera, questa è Focus Economia, sono le 17.06, io sono Enrico Brivio e vi ricordo il numero a cui mandare i vostri sms è 349-238-6666 e poi c'è anche la pagina di Facebook. Oggi abbiamo una giornata piuttosto tranquilla e positiva sui mercati europei e su quello italiano in particolare, con un calo dello spread ulteriore tra Bund e BTP che non fa che rasserenare l'atmosfera, ovviamente in giornate di scambi piuttosto ridotti. Poi oggi parleremo anche della fiducia delle imprese, dell'industria, cioè qualche barlume che si sta aprendo di una maggiore speranza di ripresa e di attività e di ripresa dell'attività nell'industria, anche se rimangono incerte le prospettive per il commercio e i servizi. E quindi analizzeremo un po' questo argomento, così come parleremo poi di fondi europei, del fatto che l'Italia insomma continua a non utilizzare, nemmeno in un momento di crisi così importante, i fondi comunitari come dovrebbe. E quindi questo è un aspetto, ahimè, che ci caratterizza da tanto tempo, anche se ci sono state alcune accelerate, alcuni ottime performance di alcune regioni, però alla fin fine l'Italia non riesce, nemmeno in questi momenti di crisi, ad aprire quel rubinetto dei fondi comunitari come dovrebbe. E poi andremo un po' a scandagliare anche appunto cosa c'è dietro a questo miglioramento, a questo rasserenamento del differenziale rendimento tra il BTP e il Bund tedesco, che è calato sotto i 240 punti base a 238,5, col tasso sul decennale stabile al 4,15%. E anche qui cercheremo un po' di vedere quali sono le prospettive per l'autunno, per il rifinanziamento del nostro Stato, per le aste che ci attendono in autunno. Ma a questo punto io direi di partire con le notizie in breve. Oro a $1,329,55 all'oncia, più 0,3% oggi nel campo delle materie prime, mentre il petrolio WTI è arrivato a $105,9 a New York, in leggera flessione dello 0,1%. Importante accordo dell'Eni con il Mozambico da $400 milioni, quindi si è sanata una controversia che c'era in Mozambico e l'Eni ha siglato un accordo fiscale con le autorità del Mozambico che prevede il pagamento per il 23 agosto di $400 milioni e l'impegno alla costruzione di una centrale da 75 megawatt nella provincia di Cabo Delgado. L'intesa, è stato spiegato, è collegata alla cessione a China National Petroleum Corporation della quota del 28,57% della società Eni East Africa. Negli Stati Uniti poi le vendite a dettaglio a luglio più 0,2%. A luglio quindi un aumento che al netto della componente auto registra un rialzo del 0,5%, un incremento leggermente inferiore alle stime degli analisti che puntavano allo 0,3%. Insomma, la ripresa negli Stati Uniti c'è, ma come vediamo resta piuttosto esitante e non travolgente. Così come anche nell'Europa a 17 la produzione industriale la produzione industriale sale nello 0,7% nell'Eurozona e dello 0,9% nell'UE a 27, quindi ancora non conteggia la Croazia questo conteggio. E quindi anche qui, insomma, una produzione comunque industriale che dà qualche cenno di ripresa, con l'Italia che registra uno 0,3 su base mensile, ma su questo poi torneremo. Lo spread, l'abbiamo detto, è calato 238,5 punti dopo l'indice ZEV, un indice ZEV che registra le aspettative economiche in Germania e che è andato piuttosto bene, è salito a 42 punti dai 36,3 del mese precedente, un dato superiore alle stime degli analisti che puntavano un rialzo del 39,9%, e questo rasserenamento delle prospettive in Germania, che rimane insomma alla fin fine con i suoi 80 milioni di abitanti il mercato più importante in Europa e il motore più importante per la crescita europea, questo dato, dicevo, ha contribuito a riportare un certo ottimismo, anche se lieve, sui mercati. Poi una notizia che arriva dal Tesoro, cioè un'indiscrezione più che altro, nel senso che Reuters ha registrato una fonte governativa secondo la quale il Tesoro italiano non sarà nelle condizioni di ridurre le emissioni di titoli di Stato dall'autunno, come era invece avvenuto negli anni scorsi, a fronte di un elevato funding già ad agosto. Questo perché dovrà affrontare i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni e per via dell'incertezza legata al versamento dell'IMU sulla prima casa. Ma vedremo insomma poi se questo effettivamente sarà, approfondiremo questo tema poi più avanti in trasmissione delle emissioni delle aste del Tesoro e del rifinanziamento dello Stato, che rimane comunque il rifinanziamento più importante che c'è in Europa, data la montagna di debito che comunque l'Italia si trova a dover gestire. Ecco, invece la Spagna, il segretario generale del Tesoro spagnolo Íñigo Fernández de Mesa ha detto che dal prossimo settembre la Spagna ridurrà l'ammontare delle emissioni circa il 30%. Siamo a buon punto, siamo contenti, ha sostenuto l'alto funzionario spagnolo. Negli anni passati con una situazione simile si era potuto ridurre le emissioni autunnali, e vedremo quanto sarà possibile fare. E invece la fonte, dicevamo, che ha parlato con Reuters ha fatto presente che quest'autunno sarà un po' diverso rispetto a quello dell'anno precedente, quindi una situazione in qualche modo diversa a quella della Spagna. E poi altre voci, altre smentite. Questa volta, ieri avevamo parlato di questo piano di prepensionamenti, queste voci raccolte in primis dal Messaggero, ma anche da altri media, su un ampio piano di sfoltimento dell'apparato pubblico. Ora il ministro della pubblica amministrazione Giampiero D'Alio ha però chiarito che la notizia dei 200.000 prepensionati non è vera. Un piano da 200.000 prepensionati per gli statali, questi numeri non li abbiamo e non li abbiamo dati, ha sostenuto il ministro. La notizia non corrisponde al vero, ci sono varie ipotesi allo studio, ha sostenuto D'Alia, che potremo confermare solo dopo una verifica condivisa in Consiglio dei Ministri. E il ministro ha anche fatto presente che si stanno applicando le norme sulla spending review del precedente governo e che quindi si è stimato che la contrazione della pubblica amministrazione comporterà eccedenze di personale per circa 7-8 mila unità. Per il 50% saranno riassorbite con procedure di mobilità, per l'altro 50% attraverso l'esodo volontario, ha indicato il ministro a Radio Anch'io, e ha detto: se si dovesse andare avanti per questa strada si adotteranno gli stessi criteri, nessuno verrà mai licenziato. E poi sul fronte sindacale invece, Angeletti, sono 4 anni che bloccano i contratti, ha fatto presente il leader della UIL Angeletti. Gli statali sono l'unica categoria sottoposta a questo trattamento, un conflitto sarà inevitabile. E così ha fatto balenare il rischio di un autunno caldo sul fronte del pubblico impiego, che è tutto quello che non ci vorrebbe in realtà per una ripresa già così asfittica e con prospettive così incerte. Di tutto c'è bisogno fuorché di un autunno caldo, però da queste dichiarazioni di Angeletti si percepisce un intento un po' bellicoso. E poi ancora il tormentone dell'IMU, questa volta si parla di tassa di servizio. Non vedo obiezioni all'idea di introdurre una tassa di servizio che può essere il punto di partenza per un'intesa complessiva sulla riforma dell'IMU. Lo ha detto all'ANSA il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Il resto, aggiunge, è aperto alle discussioni, ma questa discussione, come sappiamo, continua ad essere abbastanza tormentata, ad essere un elemento ulteriore di incertezza. Forse sarebbe bene una volta per tutte tagliare la testa al toro e prendere una decisione chiara e netta sull'IMU, ma sappiamo che le forze politiche non la vedono tutte allo stesso modo. E andiamo adesso al primo approfondimento. Il primo approfondimento riguarda proprio la ripresa. Stiamo andando veramente verso la ripresa o si tratta semplicemente di illusioni? Ecco, su questo punto, insomma, che non è da poco, quando si tornerà dalle vacanze, si giocano molte delle aspettative, le speranze, insomma, che l'economia in qualche modo riesca a riattivarsi e che non solo, insomma, quei settori legati all'esportazione abbiano un'attività più brillante. Ecco, oggi è uscito uno studio di Unioncamere che proprio ha rilevato che risale in qualche modo la fiducia tra le imprese dell'industria, mentre restano incerte le prospettive per commercio e servizi. E quindi in generale si registrano andamenti tendenziali di ripresa per più o meno tutti i comparti rispetto al 2012, ma le previsioni per il terzo trimestre 2013 rimangono comunque in campo negativo, diciamo. Quindi, insomma, di nuovo una situazione di chiaroscuro. E io adesso abbiamo con noi, e lo ringrazio proprio per commentare questo studio, il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello, al quale chiedo appunto qual è la situazione, insomma, che questo studio fotografa, come sta andando, insomma, la situazione delle imprese italiane. In questa estate così caliente di questi giorni, questi dati servono non a raffreddare un attimino l'ambiente come ce ne sarebbe bisogno, ma io credo a dare una luce di quello che si sta evolvendo all'interno del nostro paese. Un paese che trova nel manifatturiero una delle sue ragioni per un certo qual ottimismo di prospettiva, ed un settore invece del commercio e dei servizi italiano che vive ancora in questo momento la drammaticità dei consumi. Quante sono le imprese italiane che in questi giorni nel mondo del commercio che sono aperti per ferie, quindi tu la dice tutta come in questo momento ci sia in questo ambito grande sofferenza, crisi dei consumi evidentissima e quindi una situazione poco incoraggiante per quanto riguarda i prossimi mesi di questo anno. Mentre per il manifatturiero si apre ancora una volta in prospettiva delle nuove opportunità. Da un dato che probabilmente non abbiamo ancora evidenziato in questi giorni, ma da una nostra analisi, in quest'ultimissimo periodo abbiamo 2.000 nuove imprese italiane che hanno incominciato a fare export. Vuol dire che la qualità del nostro fare, la qualità delle nostre produzioni, l'innovazione tecnologica che abbiamo saputo mettere in campo stanno dando i risultati che noi ci auspicavamo, che col governo e con, insieme all'associazione di categoria avevamo già in qualche modo immaginato già nella famosa cabina di regia sulla quale si giocavano tante delle aspettative del Made in Italy nel mondo. Quindi un po' di ottimismo, io dico un po' di fiducia, una piccola fiducia pare che in qualche modo pervanga all'interno del mondo del manifatturiero, in quasi tutti i settori economici, quelli prevalenti nei quali noi siamo protagonisti in modo particolare sul mercato globale. Quel mercato globale che garantisce anche, come abbiamo detto recentissimamente, anche nuove occupazioni di qualità, per dare e per continuare a dare, io dico in prospettiva, quei numeri che servono al nostro paese per mettere insieme di nuovo quella prospettiva del quale noi siamo reduci di tutti questi anni del nostro lavoro. Certo servono delle cure robuste, c'è bisogno che il governo in questi prossimi mesi veramente non solo faccia il decreto del fare, ma un decreto del fare che possa poi tramutarsi in quell'operatività, un carico fiscale minore, il costo del lavoro che sia meno così oppressivo per quanto riguarda la nostra concorrenzialità, e c'è bisogno poi dopo che si provveda a creare per il mercato interno quelle condizioni di investimento che sono la benzina indispensabile per far ripartire il motore della crescita e dello sviluppo e dare quella fiducia all'imprenditore per poter continuare ad investire e anche al consumatore, quel grande consumatore italiano che in questo momento è in stand-by per tutto quelle che sono le necessarie spese della sua quotidianità, legata ad una fiducia che tarda ad arrivare, ma che noi ci auspichiamo, ecco, che questo nostro fine 2013 possa in qualche modo far riprendere quel cammino di positività di cui abbiamo estremamente bisogno. Le imprese, ecco, sono pronte ancora una volta a fare la loro parte, ecco, facciamo delle politiche per l'impresa, politiche per lavoro assolutamente sì, ma se non c'è impresa il lavoro come facciamo in qualche modo a costruirlo? Quindi c'è bisogno che assolutamente si pensi all'impresa, alla piccola, alla media, alla grande, a tutto questo popò di imprenditoria che è la nostra grande caratteristica, che ci qualifica nel mondo e che ci mette in condizione, quando l'Italia sa fare l'Italia, di diventare ancora una volta noi grandi protagonisti, come lo siamo oggi tuttora. Ricordiamoci bene che siamo la quinta nazione al mondo per l'export, e quindi io credo questi nostri primati, che sono frutto della nostra storia ma anche dell'impegno, dell'intelligenza della nostra gente, debba continuare con supporto, io dico indispensabile, del governo a ricreare quelle condizioni delle quali noi abbiamo bisogno, nelle quali noi confidiamo. Ecco, quindi ci sia bisogno di un lavoro incisivo per favorire sul terreno della competitività le imprese italiane. A suo avviso, appunto, si è parlato di alcuni settori, soprattutto più rivolti all'export, che soffrono meno, di aziende di medio alto dimensioni. Anche le piccole imprese. Ecco, le piccole e medie imprese come stanno andando in questo? Voi che avete il polso un po' della situazione. Proprio dicendo poc'anzi, in questi ultimi mesi, 2.000 nuovi imprenditori italiani, in modo particolare, ecco, del nord-est e del nord-ovest, pochi ancora del mezzogiorno, hanno incominciato a diventare protagonisti sul mercato globale. Sarà perché le camere di commercio sono particolarmente attente a questi problemi, hanno creato condizioni importanti, sportelli particolari per dare nuova cultura, nuova formazione, nuova informazione in questa direzione. Ma qualcuno ha avuto anche il coraggio di uscire dal proprio ambito e con coraggio e con determinazione hanno incominciato a portare quella qualità che è la nostra caratteristica principale, sui quali stiamo continuando a riscuotere nel mondo, io dico consensi enormi. Quindi noi non potremo mai competere sulla quantità, sui grandi numeri, ma sulla qualità io credo che avremo poche concorrenze se continueremo, ecco, con quell'ingegno, con quella capacità insita proprio nella nostra gente, nella nostra imprenditoria, per continuare a fare gli Archimede quanti servono, per poter portare nuove tante innovazioni in tutti gli ambiti dell'economia, dall'agroalimentare alla meccanica, dall'aeronautica, a tutto quanto noi oggi sappiamo fare e siamo riconosciuti bravi in ogni angolo del mondo. Ecco, quindi, però lei diceva la situazione più di sofferenza in questo momento rimane nel terziario, nel commercio, nei servizi, che pure è una parte importante della vita economica. Ecco, come si può facilitare, insomma, questa cinghia di trasmissione, come si possono trasmettere in qualche modo questi segnali che ci sono alcuni settori industriali anche anche al commercio e ai servizi, secondo lei? Ah, guardi, nel momento in cui c'è una crisi, innanzitutto vengono a essere i consumi interni i primi ad essere in qualche modo frenati. E in questa crisi, come dicevo prima, porta anche, purtroppo inevitabilmente, pochi investimenti. E dagli investimenti nascono anche inevitabilmente poi dopo consumi interni. E poi c'è questa ritrosia della gente italica che nel momento della difficoltà frena anche un po' la corsa alla spesa. Quindi c'è bisogno di rimettere un po' in moto meccanismi anche di natura emotiva, di natura così emozionale, perché se ci manca un po' la fiducia e vengono meno probabilmente questi stimoli, certamente il mercato interno rimane un attimino al palo. Rimane al palo e poi anche perché i provvedimenti che dovranno essere presi, purtroppo irrimediabilmente, se fossero applicati, andranno ulteriormente a ridimensionare la spesa e i consumi. Quindi credo che quest'autunno sarà caldissimo per il governo per cercare di ragionare sui temi che ha in campo, non soltanto l'IMU, si parla ogni giorno dell'IMU senza dimenticarsi invece tanti altri problemi di cui le imprese soffrono, pensate a che cos'è la TARES se fosse applicata, pensate all'aumento dell'IVA fosse applicata, quindi abbiamo fatto in questi mesi soltanto un ragionamento su un'imposta, senza dimenticarsi invece che c'è un oceano, un'invasione, una galassia di freni e di carico fiscale che ogni giorno in qualche modo devono sopportare le imprese italiane e automaticamente anche i consumatori. Quindi credo che ci sia un grande autunno di sofferenza in qualche modo da affrontare, ma credo che questi primi spiragli che noi in qualche modo intravediamo, un po' più di ottimismo c'è all'interno delle imprese, queste 10.000 imprese che noi abbiamo in qualche modo monitorato, che sono frutto anche di questo nostro studio, stanno a dimostrare che c'è in effetti qualche piccola segnale, io dico però importante, di ottimismo, non di ottimismo perché è esagerato dire ottimismo, di maggior fiducia, ecco, in questo ultimo semestre del 2013, per auspichiamoci poi dopo avere un 2014 nel quale far ripartire una macchina senza la quale probabilmente non possiamo disegnare nessun straordinario futuro della nostra economia. Però qualche segnale quindi rispetto a un anno fa o due anni fa, insomma. Ma guardi, i dati saranno probabilmente anche nella produzione non positivi, però negli imprenditori intravedono, ecco, e quindi quando l'imprenditore deve avere fiducia, deve essere ottimista, deve essere sempre di buon umore, quando c'è il buon umore, c'è un po' di ottimismo, allora io credo gli investimenti arrivano, le innovazioni vengono realizzate, nuova formazione, nuovo utilizzo di manodopera viene applicata, quindi è quel meccanismo lento, inevitabile, però senza il quale non si può ripartire, senza il quale non si possono poi dopo ottenere risultati. Auguriamoci che tutto questo possa avvenire già alla fine di questo 2013, perché io sono fiducioso che quest'Italia, tali e tanti numeri, tali e tante capacità, per riprendere un cammino peroso e per ridare di nuovo quella dignità a questo nostro paese, a questa nostra economia che merita assolutamente nel mondo. Bene, io la ringrazio, Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere, anche noi uniamoci a questo augurio che le ruote, gli ingranaggi dell'economia italiana riprendano a funzionare e a girare un po' più speditamente, che magari la politica dia una mano sul terreno appunto delle semplificazioni e della creazione anche di condizioni che facilitano la competitività delle aziende. E noi adesso lasciamo spazio al meteo, alla pubblicità. Buonasera, ben ritrovati a Focus Economia, io sono Enrico Brivio e sono le 17.32. Ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666 e quindi abbiamo appena parlato di come fatichi l'economia italiana a riprendersi, di come ci sia necessità di condizioni importanti. Però il problema è anche che ci sono dei fondi, ci sono dei finanziamenti che l'Italia potrebbe utilizzare, soprattutto in questo momento di crisi, ovvero i fondi europei, ma che vengono talvolta sperperati, usati male, quando non poi addirittura non vengono utilizzati del tutto. Oggi c'è stata una presa di posizione del commissario delle politiche regionali, Johannes Hahn, che ha detto basta con la distribuzione a pioggia dei fondi europei. Ecco, bisogna assicurare una forte concentrazione delle risorse disponibili su poche, chiare priorità. E questo è un monito, insomma, che vale anche e soprattutto per l'Italia, perché ci sono, ha ricordato Hahn, stati buoni esempi, ha menzionato le tecnopoli in Emilia-Romagna, i piani di sviluppo urbano integrato in Toscana o sulle energie rinnovabili in Puglia, però dice non vogliamo più, a Bruxelles non si vuole più l'utilizzo dei fondi per eventi come il concerto di Elton John a Napoli. Ora, per carità, Elton John è un grande artista, però non c'è bisogno appunto di finanziare la sua performance con i fondi comunitari che possono andare alle attività produttive. E a questo proposito, insomma, Hahn ha detto ok, investimenti su turismo, beni culturali, non siamo inflessibili rispetto alle priorità, però ci devono essere progetti innovativi, bisogna sostenere le imprese, essere attenti a risorse locali e ambiente. Insomma, parole sacrosante che da quale tra l'altro riecheggiano cose che sono state dette più volte a questa radio. Il legame tra patrimonio culturale e la prosperità futura delle sue regioni, soprattutto nel sud, è lampante e la prossima programmazione lo può aiutare. Ricordiamo che è in partenza dall'anno prossimo una programmazione di nuovi 7 anni di fondi europei. E proprio per scandagliare un po' questa situazione, capire cosa può fare meglio l'Italia e cosa non sta facendo bene, ho chiamato Giuseppe Chiellino, giornalista del Sole 24 Ore, che conosce bene la situazione dei fondi comunitari e l'ha approfondita. Buonasera Giuseppe. Buonasera Enrico, a te e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, mi pare di capire che ci sia stato un monito al di là appunto di queste parole di Hahn e che anche su qualche documento, insomma nero su bianco, la Commissione europea abbia fatto delle sue raccomandazioni all'Italia. Ci puoi dire qualcosa di più? Sì, guarda, tutto nasce dal fatto che a fine dicembre si chiude il periodo di programmazione 2007-2013, 7 anni, durante i quali l'Italia è riuscita a spendere più o meno il 40% di quei 28 miliardi che le erano stati assegnati con i fondi strutturali all'inizio dei 7 anni. Significa che l'Italia nelle parti basse della classifica dei 27 paesi membri dell'Unione. Ci sono paesi come la Lituania o anche il Portogallo che hanno speso più del 70%. Ora noi avremo ancora 2 anni fino alla fine del 2015 per spendere una parte di queste risorse, ma sarà una corsa contro il tempo e sarà comunque complicato. Vuol dire che rischieremo di spenderli male. Perciò la Commissione nelle scorse settimane ha inviato un documento riservato che siamo riusciti ad avere al Ministero della Coesione Territoriale, facendo un'analisi abbastanza dettagliata delle cause che impediscono all'Italia di spendere bene queste risorse. Ecco, ci puoi dire qualcuna di queste cause? Quali per esempio sono, insomma, i punti di criticità che vengono messi in rilievo? Guarda, la prima causa che indica la Commissione è l'elevata influenza della politica nella fase di gestione e attuazione, che porta poi a comportamenti distorti nelle scelte amministrative, e mi pare di ritrovare questa in maniera forse anche più esplicita nell'intervista del commissario Hahn che tu ricordavi poco fa, di ritrovare questo argomento. La dispersione a pioggia di risorse significa non decidere sostanzialmente, non concentrare gli sforzi su poche azioni importanti, significative per lo sviluppo del paese, soprattutto delle regioni del Mezzogiorno, ma accontentare tutti e quindi non fare in modo che il politico di turno abbia sia gratificato e soprattutto riesca a gratificare i propri elettori con feste, sagre, il concerto di Elton John che ricordavi tu e via dicendo. Quindi insomma un uso dei fondi più per fini politici e propagandistici, esatto, che non laddove insomma, esatto, c'è più necessità per l'economia. Poi sì, esatto, questa è la prima causa. Poi l'altro argomento importante per la Commissione è la cattiva organizzazione degli uffici, cioè anche qui sempre per ingerenze della politica, perché gli organigrammi spesso sono frutto di dinamiche indipendenti dall'esigenza di avere amministrazioni efficienti e strutturate in rapporto agli obiettivi che con questi fondi si vorrebbero ottenere. Quindi il federalismo pasticciato degli ultimi anni non ha aiutato. Non ha aiutato per niente, infatti il documento fa riferimento anche alle riforme amministrative degli ultimi anni che non hanno portato quei benefici che si sperava, parla proprio esplicitamente di fallimento. Poi c'è lo scarso coordinamento tra i diversi uffici, la poca trasparenza, l'insufficiente attività di management delle autorità di gestione. Ogni regione, per esempio sulle autorità di gestione, la Commissione suggerisce di trovare un modello unico che venga applicato in tutte le regioni, mentre invece oggi ogni regione fa un po' come gli pare e queste autorità di gestione sono negli assessorati o nella presidenza oppure sono uffici a parte che non rispondono a nessuno, insomma un po' di disordine. Le altre cause interessanti sono la scarsa capacità tecnica di progettazione e di attuazione e di monitoraggio, anche questo è un punto importante, questo non dipende soltanto dalla nostra burocrazia, ma dipende anche dalla capacità delle imprese di sviluppare progetti sostenibili, realizzabili. E a volte mi è capitato di parlare con funzionari regionali che mi raccontano di aziende con alcune decine di migliaia di euro di fatturato che presentano progetti per milioni di euro. È difficile che un'azienda che abbia un fatturato di 20-30 mila euro, ma anche 50, poi riesca a gestire un progetto di 1-2 milioni di euro. Sì, sì, sì. Beh, a me è andata bene. Pensi che una volta che andai a fare un'inchiesta sui fondi strutturali anni fa, trovai un funzionario regionale che mi diceva: noi non facciamo progetti, facciamo filosofia dei progetti. ahimè, è un grosso problema. Prego. Un'altra cosa di cui però la Commissione non parla in questo documento e che invece viene segnalata poi diciamo sul territorio è la difficoltà di accesso al credito, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, come forse molti ascoltatori sanno, i fondi strutturali hanno, per essere assegnati hanno bisogno di una quota di finanziamento, cioè finanziano il 50% di un'opera, ma il resto deve essere speso o da un'istituzione locale o dal privato che presenta il progetto. Allora il privato che presenta il progetto ha bisogno di una fideiussione bancaria, cioè la banca assicura che la quota di cofinanziamento è coperta, ma di questi tempi le banche non concedono queste garanzie ai privati e quindi per i privati diventa impossibile accedere ai fondi comunitari. Quindi questo è un altro scoglio molto importante di cui la Commissione non parla peraltro, quindi bene ricordarlo ai tecnici di Bruxelles. Sì, dunque, questo per quanto riguarda i fondi strutturali, quelli che vengono gestiti insomma dalle regioni. Però oggi, sulle 24 ore di oggi, Marzio Bartoloni ha dato anche conto che l'Italia ha speso poco anche per quanto riguarda i finanziamenti diretti, cioè il settimo programma quadro che diventerà Horizon 2020, cioè un importantissimo programma al quale le aziende potrebbero accedere, ma che per le quali l'Italia accede solo con l'8,27% di partecipazione ai bandi, mentre insomma sappiamo che al bilancio UE l'Italia mette una quota che vale il 14%, quindi certo, c'è un'incapacità forse anche di fare squadra, sia dunque oltre alla scarsa organizzazione regionale, politica, che molto bene messo in luce, c'è poi anche una certa difficoltà a presentare progetti che vincano questi bandi anche dal mondo delle aziende e degli istituti di ricerca, no? Certo, infatti nell'articolo di Bartoloni si segnala soprattutto la difficoltà a fare squadra tra imprese e università e centri di ricerca, che è quello che poi c'è, cioè questa sinergia che in Italia si fa molta difficoltà a realizzare, che porta poi a proporre progetti a Bruxelles in grado di conquistare queste risorse. Come dicevi tu, noi abbiamo riusciamo ad avere solo l'8,3% di questi 40 miliardi che è il plafond destinato al settimo programma quadro per la ricerca, mentre invece la Gran Bretagna, per esempio, mi ha colpito molto, che contribuisce al bilancio comunitario per una quota inferiore al 12%, riesce a ottenere fondi quasi per il 15%, quindi più di quello. E in più c'ha lo sconto, per cui un po' di soldi gli ridanno indietro. E noi ricordiamo che, tra l'altro, Horizon 2020, insomma, mette in gioco con i suoi bandi 70 miliardi, quindi 70 miliardi, nei prossimi 7 anni. Quindi non si tratta di bruscolini, ed è importante che l'Italia, insomma, riesca ad accedere. Bene, ti ringrazio. So che solo di domani forse leggeremo ancora altre notizie sui fondi europei e le problematiche italiane, questo è importante. Grazie. A domani, allora. A domani. Ecco, e ricordo poi invece che il giorno successivo, cioè il giorno di Ferragosto, ci sarà uno speciale Sole 24 Ore di Ferragosto. Come cambia la vita degli italiani con i provvedimenti del governo Letta? Quindi tutto ciò che riguarda lavoro, scuola, tasse, multa, casa, mobili, ecobonus, nuovi contratti a termine, tirocini e borse di studio, fisco a rate, multe con lo sconto. Cosa è cambiato davvero, cosa no, cosa cambierà e a partire da quando? Ecco, questo lo troverete nel Sole 24 Ore di Ferragosto in edicola giovedì 15 agosto con uno speciale di 6 pagine. E noi ora andiamo alle notizie per chi viaggia. Ebbene, ora è il momento di andare a vedere un po' più in dettaglio le notizie della borsa. È stata una giornata piuttosto positiva, tranquilla, con il FTSE All Share che è salito dello 0,62%, il FTSE MIB dello 0,68%. Bene la borsa tedesca, appunto per l'indice Z sulla fiducia delle imprese tedesche, che è migliorato più del previsto, quindi il DAX 30 è salito dello 0,68%, mentre in Francia il CAC 40 è salito dello 0,51% e in Inghilterra l'FT100 è salito dello 0,53%. Meno brillante invece la situazione negli Stati Uniti, dove anche lì un indice invece meno, a differenza di quello tedesco, meno positivo del previsto sulla fiducia delle piccole imprese, qualche altra incertezza sul fronte appunto dei futuri atteggiamenti della Fed, ha portato il Dow Jones a meno 0,16 e l'S&P 500 a meno 0,07, comunque con volumi piuttosto bassi e contenuti. Per quanto riguarda i migliori titoli, gran protagonista MPS con più 7,66%, seguito da Finmeccanica 4,14%, Banca Popolare Emilia Romagna più 3,99%, UBI Banca 3,81%, con i titoli bancari che hanno beneficiato appunto del calo dello spread di cui abbiamo parlato prima, mentre tra i peggiori Azimut che è meno 2,08%, Fondiaria Sai meno 1,92%, GTEC meno 1,58%. Ma ora ci colleghiamo con il nostro collega di Radio Core per andare un po' più in profondità sulle notizie di borsa. Allora, come sono andate oggi le cose? Mi pare che sia stata una seduta piuttosto tranquilla. Esattamente. E buonasera a tutti gli ascoltatori. È stata una seduta piuttosto tranquilla, senza particolari spunti. Come ricordavi tu, i temi principali sono stati di natura macroeconomica. In Europa in particolare l'indice ZEV è stato migliore delle attese, mentre nel pomeriggio negli Stati Uniti anche le vendite al dettaglio sono state inferiori alle attese, ed è anche per questo che Wall Street sta andando peggio di quanto abbia fatto l'Europa, per quanto riguarda in particolare Milano, che è stato una delle borse migliori a livello continentale. Gli acquisti si sono concentrati soprattutto sulle banche, come ricordavi tu, soprattutto sul Monte dei Paschi di Siena, e questo grazie alla discesa dello spread, che già ieri aveva toccato i minimi da 2 anni e oggi è sceso anche sotto quota 240 punti base, per poi chiudere proprio attorno a questa soglia. Ne ha beneficiato proprio in primo luogo MPS, che possiede uno dei più ampi portafogli di titoli di Stato italiani, e quindi ovviamente beneficia della riduzione dello spread tra BTP e Bund, ma anche molte altre banche. Quindi Paolo, chiedo a Paolo Paronetto, quindi secondo te è più dovuto al calo dello spread questa ottima performance di MPS che non a indiscrezioni legate all'incontro tra il presidente di MPS Alessandro Profumo e il presidente del Consiglio Letta di ieri sera? Certamente quello dello spread è il tema principale, perché appunto ne beneficiano anche tutte le altre banche, come vediamo. Anche Biper e UbiBank hanno rialzi superiori ai 3,5% vicino ai 4 punti, cioè fanno molto meglio di quanto ha fatto l'indice, e così anche il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Poi su MPS, naturalmente, visto che uno dei temi principali ancora sul tavolo è quello legato alla restituzione, alle modalità di restituzione dei Monti Bond e in generale del piano di rilancio dell'istituto su cui è intervenuta anche l'Unione Europea, naturalmente l'incontro tra Profumo, il presidente della banca, e il presidente del Consiglio Letta lascia ben sperare sul fatto che scenda in campo il governo a difendere il piano di ristrutturazione, di rilancio dell'istituto messo in campo dal management, e quindi anche questo naturalmente ha sostenuto le quotazioni del titolo. Ecco Paolo, invece il secondo miglior titolo Finmeccanica, ma lì sembra ci siano indiscrezioni su una partnership russa, giusto? Sì, sono indiscrezioni che vengono proprio dalla Russia, secondo le quali Augusta Westland, la controllata di Finmeccanica, potrebbe diventare partner strategico di Russian Helicopters. Secondo un quotidiano russo, Kommersant, proprio Augusta Westland sarebbe in pole position per la definizione di questa partnership, e oggi i titoli di Finmeccanica hanno beneficiato di questa notizia mettendosi in un rialzo superiore al 4%, in particolare più 4,14%. E invece tra i titoli che sono andati male, Fonsai e Unipol, ma direi che non sorprende dopo i sequestri della Guardia di Finanza dei beni Ligresti, giusto? Esattamente, tutti i titoli legati all'ex Galassia e Ligresti in più Unipol hanno perso terreno, Fonsai ha perso l'1,92% e Unipol il 2,04%, e ieri appunto sono stati eseguiti sequestri di beni immobili per oltre 250 milioni. Naturalmente la notizia potrebbe avere un impatto proprio sul business delle società, perché la legge 231 del 2001 sancisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quindi anche delle società che potrebbero essere chiamate in causa. Quindi ovviamente oggi le quotazioni di questi titoli hanno risentito di queste notizie. Anche Telecom non ha brillato oggi, no? Sì, ha chiuso in calo, sul finale ha migliorato lievemente, ma comunque ha chiuso in calo dello 0,29%. Ieri è arrivata la notizia che dopo Moody's anche Standard & Poor's ha abbassato l'outlook sul giudizio del titolo a negativo, quindi è possibile che ci sia un downgrade nei prossimi 12 mesi, e questo dopo l'annuncio dei conti semestrali e il taglio delle stime di redditività per il 2013. Bene, grazie a Paolo Paronetto di Radio Corso Le 24 Ore e buona serata. Ed ora andiamo a parlare di questo spread che discende. Ecco, era il nostro spettro, era il nostro fantasma che non faceva dormire la notte 2 anni fa, ora lo spread insomma un pochino meglio va, il differenziale di rendimento tra il BTP e il Bund tedesco è calato sotto i 240 punti base a 238,5, col tasso decennale stabile al 4,15%, ma per capire meglio cosa significa, quali sono le prospettive di rifinanziamento dello Stato italiano, che comunque ha un pesante fardello di debito da rifinanziare, abbiamo con noi Isabella Buffacchi del Sole 24 Ore, grande esperta dei mercati di capitali. Buongiorno, buona serata Isabella. Buonasera a tutti. Ecco, Isabella, la prima domanda che ci si pone è come mai quest'estate così tranquilla, questo spread che scende, un'estate insomma molto diversa da quella di 2 anni fa. Tu che risposta puoi dare? Beh, innanzitutto vorrei ricordare che questa parola inglese, questo spread, in realtà poi ha degli impatti concreti molto forti, quindi a noi interessa sapere che questo spread è più stretto, perché se lo Stato paga tanto per finanziare il suo debito, a cascata pagano tanto anche le banche italiane e le imprese italiane e alla fine anche le famiglie italiane. Quindi ecco, io stavo riguardando rispetto a un anno fa, proprio il 13 agosto del 2012, questo spread stava a 450 punti, quindi lo Stato si finanziava intorno al 6%, quindi il costo del denaro per noi era altissimo, quindi è molto importante riuscire a controllarlo, a contenerlo. E tu mi domandi che cosa accade queste estate, perché siamo più tranquilli, ma in realtà il contesto secondo me è molto favorevole, non soltanto un contesto esterno, anche secondo me in Italia e per dei motivi tecnici. E ti do così tre idee. La prima è che il contesto esterno è quello di una crescita, cioè l'Europa, l'Eurozona che esce dalla recessione e comunque le prospettive di una ripresa economica, anche noi usciremo dalla recessione, un 2014 con un PIL che sale, beh, questo è fondamentale per un paese super indebitato, perché un paese più ricco è più affidabile, quindi avere un PIL, una crescita è sicuramente un bene per i conti pubblici, ma anche poi per le imprese, per le banche stesse, per le sofferenze bancarie, quindi tutto il paese ne trae beneficio e diventa più affidabile, quindi può pagare di meno quando si finanzia. Poi secondo me c'è anche un fattore interno, cioè in fondo da un punto di vista della politica, e quel mercato si è convinto che per ora noi non abbiamo il rischio che teme di più il mercato, cioè il ritorno alle urne delle elezioni con la stessa legge elettorale, perché ricordiamolo, insomma, tutti i paesi, e questa è la democrazia, hanno le elezioni e i mercati sono abituati alle elezioni, quindi non è di per sé un'elezione tornare alle urne che spaventa. In Italia i mercati sono spaventati quando noi dopo le elezioni abbiamo uno stallo politico. Sì. Il terzo motivo, mi dispiace perché dobbiamo essere sintetici perché purtroppo siamo in chiusura, il terzo motivo dicevi qual è? Il terzo è altrettanto importante ed è quello del debito, cioè del rifinanziamento del nostro debito. Noi siamo sempre dei sorvegliati speciali sui mercati perché siamo il primo emittente di titoli di Stato nell'Eurozona, però il nostro programma di aste lorde quest'anno, che era di 450 miliardi, è a buon punto, siamo oltre il 70%, quindi il mercato prevede da qui a fine anno delle aste abbastanza leggere, quindi questo aiuta, e ricordiamolo, aiuta anche la BCE che tiene tassi bassi con una politica monetaria accomodante. Quindi speriamo in un autunno più meno tumultuoso di quanto lo fu 2 anni fa. Io ti ringrazio, mi dispiace che devo ora concludere qui perché purtroppo per motivi di tempo, e ci sentiamo domani con Focus Economia. Grazie in redazione a Mauro Del Corno e in regia a Valeria Bernardi. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.